quella della consistenza, della persistenza di 15 anni o 20. Il problema non è anche quello della buona coscienza a buon mercato, soprattutto se lo pagano altri. Il problema forse è quello di sostenere con un po' di umiltà non quello che noi pensiamo il meglio, ma intanto quello che Dalai Lama chiede. E in tutti gli incontri che io ho avuto, persistenti, costanti, continui, molteplici, mai il Dalai Lama ci ha chiesto di isolare la Cina. E neanche adesso lo chiede, anzi ha chiesto altro, ha chiesto venite di più, venite a milioni. Venite, ripetete e dite. Esattamente quello che alcuni militanti radicali hanno fatto pur da questa parte dell'India. Vorrei anche, sempre per non essere applaudita, perché non fa fine, dirvi che il proverbio grosso è non dimenticare. Vedete, 3 giorni di emozioni per la Birmania, se lo ricorda ancora qualcuno? 24 ore per lo Zimbabwe, qualcuno ha insistito a fare qualcos'altro? Abbiamo isolato la Corea del Nord, qualcuno per caso gli punge vaghezza? Il nostro modo migliore e più facile sembra apparentemente quello più netto. Ma il nostro problema non è punire centinaia di milioni di cinesi che stanno affacciandosi a un minimo di benessere, boicottando non si sa quali prodotti. Il problema semmai sono le pressioni sul regime cinese, che è un altro discorso. Allora, il mio è un appello all'attenzione e al rispetto della non violenza, alla pratica della non violenza. Chi la pratica in Italia viene normalmente deriso, lo dico perché Marco Pannella sta su questa piazza e lo dico perché il massimo che riceve, non solo dalla classe politica o dalla quella mediatica, è normalmente un po' di derisione. Invece sono costi che si pagano, che paghiamo e che paghiamo con consistenza. Vi prego di una cosa sola, non c'è nessuna ricetta miracolistica. C'è da inventare per seguire nuovi strumenti costosi, anche personalmente. Ma una cosa vi chiedo, per favore, Pasqua, la colomba, il panettone e la pasquetta. Non girate pagina, non lasciateci più soli a non girare pagina. Grazie.